Italia in controluce. Benvenuti nella nuova settimana di reportage e di inchieste sulla cronaca italiana di Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchessi. La scelta del governo francese di espellere Rom verso la Romania provoca polemiche non solo politiche, e la decisione di Sarko condiziona anche le nostre politiche sull'immigrazione. Valeria De Rosa. Rom dentro, Rom fuori. Ma fuori dove? Le frontiere europee sono aperte, la libera circolazione delle persone dovrebbe valere per tutti, anche per chi arriva da Romania e Bulgaria. Non solo Rom, quindi. E poi con quale motivazione mettere queste persone alla porta? La Francia fa i conti con questa domanda dopo che un giudice ha accolto il ricorso di alcuni Rom espulsi da Sarkozy. Ma non solo Parigi si interroga. Gli sgomberi dei campi si susseguono anche da noi. A Milano, dopo che le ruspe sono arrivate in via Rubattino, alcune famiglie si sono mobilitate. Hanno preso in carico i bambini, li hanno portati in vacanza, hanno ospitato le loro mamme. Poi però succede che alcuni Rom vadano a visitare le case, i garage, scippino, il più delle volte gli anziani. E allora sono gli stessi parroci che dicono basta, come Don Mario, parroco di Sant'Ignazio di Loyola, quartiere Rubattino. Accoglienza sì, dice il prete, ma con delle regole. A Genova, se possibile, il problema è ancora più forte, perché l'amministrazione non ha mai voluto i campi. Certo, ci sono quelli abusivi, come dappertutto, e anche lì alcune mele marce. Il sacerdote è combattuto perché da una parte lui accoglie. Siamo tutti figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo. Infatti noi li aiutiamo, abbiamo aiutato tantissimi Rom e anche i rumeni, gente che ha bisogno. Però poi il loro atteggiamento nei confronti anche miei, perché a me mi hanno rubato 4 volte in chiesa. Un rumeno che da 4 anni aiutiamo come caritativa si è preso il lusso di venire non una, 4 volte. Rubare qui in chiesa. A parlare padre Giacomo, parroco di San Giacomo Apostolo, quartiere Cornigliano. Fatti che lasciano il posto a considerazioni amare. Vedo che il loro modo di fare è soltanto la fede di Sant'Egidio può far credere che quelli lì possono cambiare mentalità. Ci vogliono dei campi nomadi dove i nomadi si fermino quei 3-4 giorni e poi se ne vadano via. Però campi fatti bene, con l'acqua, la luce, il gas. I Rom non si devono fermare. Il guaio che abbiamo noi è che ci sono insediati. Qui vedono le nostre abitudini e sulle nostre abitudini poi loro imparano il mestiere, lo sanno, imparano a rubare. E rubano gli appartamenti, scippano gli anziani, vengono nelle chiese e sono in giro a chiedere le offerte, sfruttano i bambini per fare questo. Perché sono loro che rubano, dai, non c'è poco da fare, bisogna essere molto realisti, senza stare lì a fare guerre, non c'è bisogno di fare le guerre, bisogna che se uno sbaglia rimedi. L'altra faccia della medaglia sono i bimbi, che muoiono nei campi. Mario, 3 anni e mezzo, se l'è portato via un incendio nel campo abusivo nella periferia sud di Roma. E allora ci sono doveri da rispettare, ma anche diritti. E la strada non è quella dei campi. A dirlo è Alexian Santino Spinelli, musicista rom italiano e docente universitario. Non si capisce perché bisogna avere i campi nomadi, che costano tantissimo alla comunità e creano solo problemi sotto tutti i punti di vista. Vogliamo invece che le risorse impiegate per creare i campi nomadi vengano destinate ad altro, all'integrazione, ai posti di lavoro, alle cooperative, alla scolarizzazione dei bambini rom. Ci sono fondi europei destinati a questo che non vengono utilizzati. Bisogna smetterla di fare populismo e demagogia, facendo credere che l'integrazione passa attraverso la tasca degli italiani. Anche Spinelli è convinto che l'Europa abbia sbagliato, si è allargata senza portare con sé politiche di integrazione, una mancanza da cui continuano a nascere paure e rifiuti. È chiaro che poi chi si comporta male è giusto mandarli via, ma la singola persona che si macchia di un reato va a condannare un'intera popolazione. I Rom sono cittadini europei dal 1400, non da ieri. Italia in controluce. La seconda traccia riguarda quarantenni che perdono il lavoro e che guardano al loro avvenire, pensano cioè ad un nuovo impiego, come l'infermiere, il racconto di Cristina Carpinelli. Solo 5 anni fa c'erano più posti rispetto al numero di iscritti, tanto che fu fatta anche una campagna pubblicitaria per convincere i giovani ad iscriversi alla scuola per infermieri. Oggi la scuola per infermieri si chiama Laurea e non è cambiato solo quello.